cara Nelly. Siamo noi e tutto il mondo fuori, la gelosia degli infami ha reso noi migliori. Mi hai capito all'istante come fossi una sorella, ma a me piace chiamarti principessa o stella, la più bella che brilla nel cielo. Con te ho imparato a non voltarmi indietro, ho scritto ti voglio bene sulla condensa del vetro. In poche parole sei essenziale per me, come lo zucchero messo nel caffè. Un carattere selvaggio sul mio braccio, caranelli come tatuaggio, e non ci fermano mai, proprio come Bonnie e Clyde. Sono sincero e te lo dico con il cuore, non c'è melodia che suoni meglio del tuo nome, se Nelly, da quando ti ho incontrata tutto adesso ha un senso. Nelly, da quando ti ho guardata sempre adesso io ti penso. In un sogno infinito con un mondo migliore finito, in un posto dove c'è sempre il sole. Sei la cosa più bella che mi è mai capitata, la ragione di vita che ognuno vuole. È tutto cominciato un bel lunedì di settembre, la scuola che riapre, no non cambia niente. C'è l'auto con dentro le stesse persone e ho i capelli scompigliati che sembro un pavone. Dalla periferia arrivo in centro e per la strada sembra di stare sull'autoscontro. Cambio auto e lei mi appare come un sogno, sta lì seduta che disegna teschi sopra un foglio. È troppo bella, non mi muovo, resto lì e me la meno. Lei è la classica stronza, non mi guarda nemmeno. Posso sembrare un grandissimo scemo, ma al posto degli occhi ha dei grandi fanali all'oxeno. Oh, Nelly, da quando ti ho incontrata tutto adesso ha un senso. Nelly, da quando ti ho guardata sempre adesso io ti penso. In un sogno infinito con un mondo migliore finito, in un posto dove c'è sempre il sole. Sei la cosa più bella che mi è mai capitata, la ragione di vita che ognuno vuole. E lo sai che vorrei ricordarti per sempre. Ce ne freghiamo zia, lascia perdere le merde. E sei perfetta e non te ne rendi conto, hai conosciuto me con la testa poco a posto. E non mi pento di sporcare questo foglio, ci siamo fatti dei nemici e l'invidia che ci rende sempre più uniti. La vita è troppo breve per dar retta a dei motivi. Nelly, da quando ti ho incontrata tutto adesso ha un senso. Nelly, da quando ti ho guardata sempre adesso io ti penso. In un sogno infinito con un mondo migliore finito, in un posto dove c'è sempre il sole. Sei la cosa più bella che mi è mai capitata, la ragione di vita che ognuno vuole. Nelly, da quando ti ho incontrata tutto adesso ha un senso. Nelly, da quando ti ho guardata sempre adesso io ti penso. In un sogno infinito con un mondo migliore finito, in un posto dove c'è sempre il sole. Sei la cosa più bella che mi è mai capitata, la ragione di vita che ognuno vuole.